chi la conferma sto sotto coperta. Stato d'allerta, quattro comi, 20 che hanno spazzato la terra senza tregua. Fuga da liga, 30.000 persone nemiche, pronti a distruzioni totali come Katrina sigla. End of the world, il giorno del giudizio come metodo. Inviati macucati nelle strade con il report. La furia dall'alto come per l'acqua. E la tempesta perfetta, l'allarme rosso si propaga in radio. Truppe d'assalto sparse nel fango. Iglesia City tra detriti e feriti, gli apocalisse più di Scine Brando. Il giorno dopo il quel dell'alba si affaccia silenti avanti uno scenario sterile. Buio nella nostra mente, si cercano sopravvissuti. Anime sotto frantumi, l'acqua restituisce i corpi dei primi caduti. Tra le rovine un bimbo piange le proprie ferite. Solo in questo mondo grande è la cicatrice. Prega inutile che tanto non c'è modo. Poco tempo prima che si sciolga l'ultimo nodo. La torre di Benares si sposta su di Gresas. La gente nel suo panico firma la sua resa. I venti, 20.000 giro di lancetta spazzano via chi ancora non se l'aspetta. Corpi, gli ombrelli, lamiere taglienti vengono trovati nelle pianure circostanti. Questa è la natura al suo massimo sfogo, che spazza i palazzi come pezzi di Lego. È lo stress qui, non lo si legge più. I grandi del dopoguerra vivono un déjà vu. Il disorientamento negli occhi delle persone, non riconoscendo le strade del proprio rione. Un trauma collettivo che sconvolge la mente. È arrivato il Big One, Apocalisse Iglesiente.